Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi siamo in una location particolare perché siamo venuti a trovare Ilenia, Borgo Nuovo di Dinosauri in carne e ossa, il parco che a San Lazzaro ospita scolaresche, appassionati e anche semplici curiosi per un allestimento sia spettacolare che scientifico, perché la vostra particolarità sappiamo essere quella di ricostruzioni sia di dimensioni che di formato che ricalcano effettivamente gli studi attuali di paleontologia. Grazie intanto di essere qui con noi. Grazie Claudio. Sì, come dicevi, la mostra è sempre in divenire proprio perché segue gli studi, quindi ogni anno portiamo anche qualche novità. Quest'anno abbiamo un nuovo dinosauro che si chiama Anzu e molto presto ne avremo ancora qualcosa di nuovo. In aggiunta ci sono anche nuovi modi e nuove attività per chi magari ha già visto la mostra o comunque vuole provare qualcosa di particolare. Esatto, con l'occasione della stagione estiva abbiamo introdotto alcune possibilità di uscire di più. Abbiamo introdotto alcune attività e sono i Dinotour al tramonto, che si tengono ogni 2 settimane. Siamo partiti domenica 13, quindi il prossimo sarà il 27 e così via per tutta la stagione estiva. Sono brevi visite guidate con la magnifica luce del tramonto, durano circa un'oretta e sono adatte a tutte per tutta la famiglia. Infatti sì, perché poi essere appassionati di archeologia, di dinosauri e comunque di tutto quel periodo che ancora ci riserva scoperte, non ha età. Esatto, anzi noi speriamo sempre di far crescere la curiosità e anzi far nascere proprio, no, la voglia di conoscere anche chi magari non direbbe, no, di essere curioso di questo ambito. Invece notiamo con piacere che anche i genitori magari che vengono pensando di accompagnare i bambini scoprono che in realtà raccontiamo cose interessanti anche per loro, sempre con uno sguardo che ci aggancia anche a temi di attualità, come appunto l'era che ci riguarda, magari anche i cambiamenti climatici, tutto ciò che riguarda, no, il cambiamento della Terra dall'antichità fino ad oggi. Citavi prima i bambini, so che organizzate anche dei laboratori. Esatto, abbiamo introdotto quest'anno per la prima volta anche un ciclo di laboratori per ragazzi divisi in 2 fasce d'età. Alcuni appuntamenti per i più piccoli esploratori dai 3 ai 5 anni e altri appuntamenti per la fascia 6-10. Si terranno i venerdì pomeriggio, ancora una volta venerdì alterni alle 5, in modo da avere anche il favore di un'ora non troppo calda. E con loro esploreremo il parco e parleremo di arte e ogni appuntamento sarà accompagnato anche da un momento pratico in cui potranno realizzare una scultura magari a tema di dinosauri o fare una caccia al tesoro e poi altre sorprese. Beh, sicuramente sono tutte da scoprire, rimandiamo magari a un sito oppure un modo per saperne di più o anche eventualmente per prenotare. Esatto, allora tutte le informazioni si trovano sul nostro sito che è dinosauricarneossa/sanlazzaro e le prenotazioni avvengono mandando al telefono della segreteria un messaggio molto semplice su WhatsApp. Pensiamo che sia una maniera anche molto rapida, molto veloce di comunicare e in effetti le prenotazioni per ora stanno arrivando e speriamo continui così. Certamente sarà comunque nostra cura anche informare tutti coloro che sono appassionati di dinosauri e non solo di questa bella possibilità che c'è in più qui nel territorio bolognese, anche se siamo comunque nel comune di San Lazzaro è veramente facile da raggiungere e vogliamo cogliere l'occasione anche per ringraziare Simone Maganuco che, se non sbaglio, è il vostro esperto scientifico, il vostro curatore. Esatto, la mostra è a cura di un team di paleontologi e paleoartisti e in particolare Simone Maganuco è un paleontologo che ha curato lo studio e la ricostruzione di alcuni dei modelli che sono in mostra e che cura tutto l'aspetto dell'allestimento con una grande professionalità. Grazie, grazie a voi, grazie Ilenia. Grazie e vi aspettiamo al parco.